diciamo, un po' di accento, eh. Pero pasa. quasi, se fai un paolo tu prima non lo passavi, arriva forte qua. Gianni, prima non vuoi 20, pensa tu. Cioè di capo estate praticamente. L'altro che mi sta dicendo? Ah, 5107. Parla la violina, piccola, veramente bella, bella, bella, bella. Io mi sto guardando via internet, c'è un computer acceso per curiosità. Quindi Claudio, ci sei. Posso fare solo solo io quel tipo di cose, perché sono autorizzato a entrare dentro le cabine e soprattutto negli impianti. Gli altri sono semplici conduttori o no? Se lui c'è mio, detto, non avevo fatto corso. Purtroppo è così, cosa vuoi che faccio? Ma alla fine ti gripi due ragazzi, ne ha tutti. Beh, gli altri non prendono lo stipendio mio, non hanno il livello mio, e quindi è chiaro che se ne sbatto. È come il proprietario di un cantiere, no? Il proprietario di un'impresa. Capito? Non c'è problemi, le opere se ne sbattono le balle. Ho finito mia mese di bucane di nappa a pagarli, non stesse cose su cui. Capito? Io già dall'anno scorso che faccio l'assistente, soprattutto seguo il bacino utenza, quindi è roba mia. Solo io li posso seguire, le devo fare io, controllare io, seguire io. Se sono problemi chiamano a me. La reperibilità ce l'abbiamo in quattro. Capito? Dove sono? Tre dirigenti e un assistente. Perciò loro prima chiamano il dirigente, avvisano che c'è un problema all'impianto, qualsiasi impianto, e allora lui gli dice chiamate l'assistente preferibile. Siccome sono io, tutta la settimana chiamano a me. Ah, quindi cioè dovresti fare una settimana su, una settimana l'altro? Certo. Io sono reperibile sino a domani sera, a domani, praticamente, a domani sera, domani tutto il giorno. Poi da domenica entra un altro, e quindi io non ho più reperibilità, la riprendo fra due settimane, però purtroppo è così, capito? Io sono entrato in turno reperibile la domenica scorsa e termino sabato, domenica mattina rientra un altro. Sino lo stesso a sabato, poi la prossima settimana ancora rientra un altro, ma mi tocca fra due settimane. La settimana che tocca a me è una sofferenza, ma devo farlo. Siamo solo in tre che facciamo questo tipo di servizio, capito Mauro? Quindi, quando mi tocca, ma in traghetta ti giuro che non mi sono fermato un minuto, perché tra i temporali, i casini, eccetera, eccetera, le fermate che sto facendo, che stiamo facendo, perché tra l'altro stiamo facendo anche dei lavori, quindi automaticamente devo fermare gli impianti dove si stanno facendo i lavori e riavviarli io, che non è una cosa da nulla, no? Ti porto un giorno a vedere, così ti rendi conto che ci sono quadri con 400.000 pulsanti cantieri a casa. Vari fatti, ma non è fatti, capito? Mi devi ricordare tutto e stare attento soprattutto a quello che stai facendo, perché poi devi aprire tutte le sale cinesche motorizzate, rimettere in pressione le pompe, dare soprattutto litri a secondo da città e paese, perché quando fermi puoi fermare anche l'Interland, e quindi devi rimettere tutto in ordine. Perciò magia già di lungo che faccio, sono confuso e basta. E niente, quindi è così, stamattina alle 4 il telefono e sciocchiamo, mi gioco bizzarro, un fulmine, ieri notte, avevo già carte su te, non lo gioco io, sono mica, mi ha fermato due pompe, una per via Milano, mi si è svoltato tutto via Milano, c'è l'altra la zona, non è solo senza acqua stamattina, tutta la zona notte, e l'altra per Monte Oro. Perciò quando tocca a me devo camminare, quando tocca all'altro devi camminare all'altro. Purtroppo l'impegno che abbiamo dobbiamo mantenere. E beh, quello sì, non è che poi una volta c'è la reperibilità che te la devi fare, non puoi fare altro. Lo so, infatti non sto combinando niente neanche nella carta, perché oltre a quello io devo fare tutti i rapporti di lavoro giorno per giorno, poi mi dimentico, mi lascio 3, 4, 5 giorni indietro, non mi ricordo più quello che ho fatto, quindi devo andare a vedere tutte le altre cose, a sapere. Adesso me le ho fatte stasera, poco fa, e niente. La speranza è stanotte vada tutto bene, e se no si ravvisa l'irruguazione, o come ti si dice in nome della vostra mano, avanti a chi tocca. Gianni, certo lavoro, questo è il primo anno che io sono a Sassari, mi ha già detto. Gestivo tutta la Bassa Anglona, sono stato a Cagliari, ne ho fatto. Quest'anno mi hanno coinvolto a venire a Sassari e quindi da maggio, da aprile, diciamo che sono a Sassari, ma mi hanno caricato di tante quelle cose che non ne hai idea. Io tutte le mattine esco alle 6, faccio tutte prima le letture e i controlli dei vasconi, trasformo tutti i metri cubi che sono arrivati nelle 24 ore in litri al secondo e poi sto tutto il giorno in movimento a controllare tutto dalla Z, non solo letture, vaccini d'utenza, ma anche tutto quello che ruota intorno al servizio idrico, capito? Sono proprio addetto alle stazioni di pompaggio, devo seguire tutto quello che è mandate d'acqua, purtroppo è così, e sono fuso, credimi che sono fuso. Facevano dei lavori sulla forania e quindi c'era una squadra che stavo lavorando con i fari, e io alle 3 di notte dovevo andare lì, vedere se avevano finito e riavviare l'impianto. Quindi andare al partitore, che non è, è un torrino di 30 metri, salire al partitore, aprire la cassa d'aria, iniziare a caricare il torrino, fare arrivare acqua a 10 km di distanza, a 110 metri d'altezza, con 60-70 atmosfere in condotta, rendete conto, da solo. Conosciuto, io ero contrattista con l'ESA di prima, e poi sono capitato in questo carrozzone. Però quello sono le bande varche, ecco perché ti ho detto, non è adatto per la VP. 27, è un decametrico quello, alle bande varche. Quindi, non so, giustamente a te è una cosa che piace, te la prendi, perché 11271 è, che è un base monobanda di 144, non è una grande radio, ma comunque molto bella, mi è piaciuta e l'ho presa. Ho fatto cambio con un'altra radio, capito? E va bene. Come il 290, il 290 è, non so se c'è il 290 e tu hai preso il 290 A, sono delle radio 2,70 metri, vecchie, che però sono molto belle da avere. No, quello non va in 27, cioè c'ha solo i 10 metri, capito? C'ha solo i 10 metri. Sono 160 metri. Io purtroppo parlo in metri, mi esprimo in gergo amatoriale. Ho capito, ho capito. I 18, i 21 e i 24, quelle sono bande Vark. Sono bande Vark, si chiama. Uno è 8, quelli sono i 160 metri. Poi c'è 3008, 3000 e... veramente va da 3100 a 3800, quindi sono gli 80 metri, da 14 a 14000 e 700, mi pare 800, quindi sono i 20 metri, e così via. Thank you. che c'è un ricevitore in più. Ne ha mia Raffaele era grande. No, ma figurati, non è che ognuno si può permettere tutto quello che vuole. È che io iniziai allora ad avere le radio così HF perché i baracchini non mi sono mai interessati. Però alla fine poi ce li avevo, non potevo usarle perché le usavi solo in 27. In 27. Guarda, io ho una vecchia linea Univen, la linea Drake che ti ripeto non accende più neanche, perché le valvole sono completamente esaurite o ho lasciato troppo fermo. Poi ho il 101 30D, non della Sommerkamp, quello della Sommerkamp, il 101 della Sommerkamp, il Digit, quello l'ho regalato a Franco Califoni. Era innamorato, gli ho regalato. E io mi sono tenuto il 101 ZD della IAS. Poi avevo due 7B della IAS, uno della Sommerkamp e uno della IAS. L'ho regalato a Mario Mazzer quando mi ha aiutato a trasloccare col suo microfono. Ed è innamoratissimo, non lo darebbe neanche se gli offri oro. Gli ho regalato tante radio io, Gianni, a chi, diciamo, la persona che meritava, capito? Mi ha regalato tantissime, bellissime radio. E poi avevo deciso di non mettere tutto quello che avevo, ne avevo male dentro gli armadi, sino a quando non avevo la mia stanza. Adesso, quando mi sono trasloccato qua nuovamente a Carbonazzi, perché mi ero staccato per 3 anni, quando poi sono tornato qua, io ho preso la casa dei miei suoceri, che è più grande di quella che avevo io, praticamente ho una stanza in più e quindi mi sono fatto la sala radio, fatto fare da falegname tutte le basi, tutte le cose necessarie, e adesso posso dire che ho tutto veramente a vista. Non c'è più niente dentro le armadi, tutto quello che trovo tiro fuori perché c'è il posto per farlo, ma prima non potevo farlo. Io non lo posso fare qua perché diciamo dove abito la casa è quella che però mi sembra di acciuffarsi. Con tutti che ci avevo messo a restaurarla ce ne sarebbe uscito l'altro, però mi ha sempre affascinato perché da piccolino quando capo sarà la balacchino mi sembrava di pulire. Sono stato 3 anni, 3 anni e mezzo, e poi ci siamo accorti che era troppo rumoroso, troppo qui, troppo là, insomma. Abbiamo approfittato e sono morti i miei soci, c'era questo appartamento che è grandissimo, vuoto, e abbiamo fatto un business tra mia moglie e fratello, e insomma abbiamo affrontato una spesa unica e ciccia, e abbiamo preferito comprare questo. Ed è capitato che c'è una stanza in più, ci sono tre stanze a letto belle grandi, e quindi quella centrale me la sono presa io. C'è finestra, c'è tutto, ho fatto una bella, Luca l'ha visto più o meno come mi sono organizzato, anche lui non l'ha vista finita, ma Falchetto l'ha vista come mi sono organizzato, tutte le cartine appese, tutte le foto delle radio che avevo prima e che ho ancora, tutti i diplomi, tutte le cose, insomma, computer, addirittura mia figlia ha messo anche, sta facendo la palestra di quanto è grande, c'è il, come un tapiro l'angolo, una cosa che ha comprato da Photoshop, fa un po' di tutto, per dirti, è chiaro che non bisogna strafare perché c'è gente che sta morendo di fame, quindi non è che bisogna strafare nelle cose che uno può fare, si vive e basta. Mi piace stare molto in 10 metri, in 6 metri, ma non è che faccio questa grande attività, preferisco scambiare due chiacchiere qua. Vediamo se c'è Luca Samero, un secondo solo, altrimenti riprendi tu. Luca, Luca è sparito, riprendi Sandro. Puoi farlo, puoi farlo. cui farlo perché è così. La legge è quella, comunque quando ci vediamo ti faccio vedere il decreto legge dove indica appunto che tu puoi farlo, tu sei esonerato dagli esami. Quindi prepari i documenti, li mandi a Cagliari e ti mandano direttamente la licenza provvisoria con nominativo e dopo ti arriva quella definitiva dopo due mesi. Perciò puoi farlo. Avanti Gianni. Sì, buonasera Sandro, Sandro Tigre da Portatore del Benzettino qui, la K2 che ti cordializza dal Cupia Calimuros. Niente, molto da ricerco Claudio e così. Se uno ha fatto un radiotelegrafista come stai dicendo tu è proprio probabile, più che probabile che possa avere la patente senza fare gli esami. E quello è una cosa, diciamo, da sfruttare, perché gli esami molti appassionati li fanno e molte volte rimangono anche in illusia, come certe persone che non faccio il nome magari perché hanno fatto una domanda errata, non so come, perché ho avuto modo di parlare di frequenza l'anno scorso con una persona, non faccio il nome, era lamentato, non so cosa era successo, perché io ho potuto provare che era una persona preparatissima, però anche lì uno poi con la testa nell'esame si va nel pallone, tu qui. Riprendi Sandro di nuovo con la buonasera, la K2 ti rimetto il cambio, vai. Ah ok, ciao, K2 ben sentito. Mi è passato il quarenne, quindi adesso riesco a tirarti fuori benissimo. Ok. Sì, no, diciamo che infatti volevo chiedere anche a Claudio di verificare, ma adesso visto che siamo entrati nell'argomento, mi ha diciamo delucidato del tutto. Va bene Claudio, vediamo un attimino in verticale, vediamo un po' tutto quello che ci vuole. Va benissimo, ok. Prendi Claudio. Roba ci vuole Sandro, ci vuole l'attestato, la fotocopia dell'attestato che hai autenticato, una fotografia autenticata e i documenti personali. Si spedisce tutto a Cagliari chiedendo appunto la licenza con il nominativo in quanto in possesso dell'attestato di radiotelegrafista di seconda classe. Non c'è nessun problema. Rispondo loro, risponderà l'ingegner De Biglio che è responsabile del settore, o ti telefonerà la signora Secchi dicendoti appunto che è così. E quindi è una cosa buona, anche perché considerando il fatto che questi esami che stiamo facendo adesso sono abbastanza difficili, anche se qualcuno diceva che acquista, io mi rimagno, io qui, io là, sì, non è tutt'ora quello che brilla, bisogna andarci con una preparazione tale da poter affrontare 32 risposte, di cui 26 devono essere libere e corrette e soprattutto devono essere quelle le risposte, perciò bisogna studiare. In tutte le cose quando uno va a fare un corso o a fare un esame deve essere preparato, non deve andare a scaldare il banco perché altrimenti non ci andrei mai. Io ho fatto un corso di aggiornamento l'anno scorso che erano 32 ore settimanali, non è che erano così tante, eppure ti dico che a volte arrivavo a casa e c'avevo la testa un po' fuori orbita per tutte le cose che spiegavano, che dicevano, i compiti che ti mettevano a casa da fare, ma compiti nel senso non ti davano una tabella con tutte delle domande e tu devi rispondere poi al prossimo corso che facevi, il responsabile del corso ti interrogava sia a voce, voleva vedere quello che avevi scritto. C'era molta gente che era preparatissima e qualcuno ha preso calcini al culo. Non ha passato il corso e non ha passato neanche il concorso, soprattutto, che è diverso. Quindi, e così, oh Sandro, approfittare, perché è una cosa che puoi avere senza molti problemi. Avanti, capri. Cifrare, diciamo, quello che sentivamo in cuffia. volte, poi ho cambiato poltrona, sono passato dall'altra parte e ho acceso il baracchino. Ok, sì, ho capito Sandro perfettamente, quello che facevi, ti posso garantire che ne hai tutti i diritti, Io ero andato, mi ero preparato tra l'altro quando ho dato la prima patente, quella speciale W0, mi ero preparato per andare a dare la telegrafia, ero 2 mesi che studiavo, ero anche bravino, e invece quando sono andato lì con la documentazione mi hanno esonerato perché anche io ero un radiotelegrafista, non caponale maggiore, radiotelegrafista di seconda classe, perché mi hanno chiesto il nulla osta, allora si chiedeva, adesso non chiedono più niente, allora si chiedeva anche il nulla osta dal servizio militare, e da nulla osta si sono accorti di come mi ero congedato, quindi mi hanno chiamato dicendomi che io non avevo appunto, non dovevo fare l'esame perché ero idoneo, visto che avevo già avuto il congedo come radiotelegrafista, quindi di quello si parlava e quello era, perché allora era, si parlava di telegrafo e ora si parla di alfabeto Morse, sempre quello era, perciò e mi hanno esonerato Sandro, e dai W0 sono passato di S0, dopo un anno hanno unificato le patenti, quindi sono, adesso sono unificate, perciò basta chiedere un esame e tutto compreso. Sì, S0, la telegrafia non c'è più, tutto lì, perciò approfittare, quando vuoi ci sentiamo, ci vediamo e si preparano i documenti e si presenta. Ok, io sono passato all'altra sedia al Capri, ho acceso il primo baracchino che mi è venuto in mano ed è sempre quello, non c'è niente da fare, l'HB23, lontane più 3 da tavolo, facciamo una ricezione che è una cosa allucinante. A te Capri. Ok, dai, già da penso c'è niente di quanti. Io già c'ero già la tira, è da riprendere, però anche quello lì sarà fatto, almeno quello che ha caratterizzato me. Ma però la telegrafia, a parte quello, adesso che è stata esonerata dalla sessione d'esame, però sempre una cosa bella, perché ha saltato tante vite umane, e sono stati fatti tanti SOS, dalle navi, tutte queste cose. E diciamo, anche se non l'ha fatto nella sessione degli esami, è una cosa bella, uno che piano piano a casa se la impara e vede una cosa in più, anche se non c'è negli esami. A me mi ha sempre affascinato quella, diciamo, che la testa mia è piena di tanti altri cose, non so, ci riuscirei a, diciamo, a scapparle mai piedi, no. C'è gente che apprende subito, che non tutti abbiamo la stessa testa, però ho ritenuto sempre una cosa bella, e apprezzo molto che ci sia stata quando c'era, perché è stata un'utilità, guarda, non dico famosa, ma umanitaria, perché allora c'è andata un po' di rubidità, dalle navi creavano gli esimonesi, tutte le trasmissioni con bravo Palini. Prendi Sandro. No, già è bello perché diciamo ha la passione, è bello, quindi ti porta diciamo, ti porta avanti e così via. Claudio, ti volevo chiedere a Sassari dove si possono trovare i classici PL, adesso non ti dico PL in ceramica, ma trovare PL in ceramica sarà un 13, poi non lo so. Non serve, li devi ordinare da fuori, quelli della Raffa, io quando mi serve. c'è una ditta di fuori, costano, però noi facciamo andare sempre una decina. Ultimamente mi ha mandato 5 perché non ne aveva neanche lui. Qua a Sassari trovi Mondezza, ci sono quelli in batilite, una batilite nera, che sono un po' più resistenti rispetto agli altri, altrimenti sono quelli in plastica, quelli bianchi come li appoggi il saldatore, si scioglie la plastica, perché non servono a niente. Poi sono quelli in batilite, ce li ha Fusaro, ce li ha Melchioni, ce li ha la GBC, ce li hanno tutti. Chiedili specificamente, però mi dia quelli in batilite nera, perché altrimenti ti rifilano quelli in plastica, non servono a niente sempre. Sempre bene, ogni tanto ricevo i saluti caffè per il baracchino, così come sta gli anni, se lo vedono saluti, gente come diamo le voci. E quindi è quello, c'è la pretesa, piglierebbe di nuovo piede, anche le voci si forniranno del materiale, per esempio sono andato da Fusaro a cercare l'MP4 e ancora in lotto. Quindi è ordinato, però non mi pare. Ma io sono convinto che non li ordinerà mai, non li arriveranno mai, perché, capito, non è quando ne ordina, non ne ordina uno o due, deve ordinarne una certa quantità e se vuole ricavare qualcosa, perché ordinarne uno non penso che sia... E così sono tutti gli altri di tutti gli altri cose, ho detto che sono a Messina già lo scambio di commutazione delle antenne, tra altre cose, però non è fornita come era fornita all'epoca e tutto lì, quindi sanno. Sì, ma è così, in effetti è così. Ma se io mi ricordo avevo una stazione la salduale, diciamo per aspirare lo stagno e così via, e c'era un bel po' e ormai era già non riscaldava più, e diciamo che la resistenza era brava. Avevo chiesto lì alla GPC, addirittura non aveva, doveva farla arrivare tutto quanto, mi aveva detto il prezzo, avevo fatto un giro qui, avevo chiamato un mio amico Gattolino, me l'aveva spedito lui, addirittura c'erano 60 euro di differenza e così via, quindi vabbè, anche loro logicamente devono avere il loro guadagno, stanno lavorando, però insomma c'è la differenza di tutto lì. Va bene, io ne approfitto a salutarvi, perché domani mattina è bello, canta presto. Ciao Capri2, ben sentito, tutte le prossime. Ciao Claudio, anche a te. E buona giornata a tutti e due per domani. Vai Claudio. Sì. Ok, nessuno becca, va bene. Ciao Sandro, buonanotte, buon tutto, alle prossime, e anch'io non è che mi trattengo molto perché domani mattina anche per me mi devo alzare presto, io sveglia non ne ho, mi batto la sveglia del telefono che mi fa compagnia, mi devo alzare presto anch'io per completare la settimana. Ok, ciao Sandro, a presto, buonanotte, ci sentiamo domani, ci aggiorniamo domani, avanti Gianni. Ok, ciao Sandro, è stato un piacere, ben sentito di nuovo. E domenica se diciamo avrete tempo ci possiamo divertire, anche io domani devo attaccare ancora il lavoro con le scuola bus e niente, ascolti anche il sabato, non è che mi devo alzare a quest'ora, diciamo, presto, però hai capito, sempre da fare cena, giornata impegnata e tutte queste belle cose, anche se il sabato non c'era il vino, non ci sono niente, però diciamo che è caratterizzata sempre dal solito zanzare, e quindi come Claudio ti associa la repetibilità e quindi fino a finirla anche lui è pronto. Capito, se la domenica mi avete voglia si ritorna quella ruota, si cambiano due chiacchiere del più e del meno, tutto lì, ma parecchio servirà anche per queste cose. Di nuovo Sandro, ti auguro una buona notte e buon tutto per domani. Anche io tra ne approfitto per salutare il dottor Ottoro, perché mi ha scritto non era vero, solo da farci un orologio, fine di due o tre, avrei tutti gli orologi mondiali piazzati, io non devo neanche la sveglia, qualche volta vorrei vedere l'orologio che ero attaccato, se c'era l'immagine da questo orientale, ma è fermo alle 11:50 soltanto di mattina, perché ero attaccato da un paio di giorni. Niente, ti auguro buonanotte, non ti dico cosa fare, come lo ti dico, auguro che non ti chiamino e hai capito, quella reperibilità sia finita qui, perché tutto, guarda, a me quando mi interrompo il sonno non riesco più poi l'indomani a fare niente, però anche quello in un lavoro, adesso questa settimana la farei in campo tu, la prossima settimana la farò l'altro, e un altro ancora l'altro, e poi è una roba che gira. Per il momento ti saluto, buonanotte e ti rimetto il cambio, vai. Ok Gianni, sì infatti, è meglio andare a nanna presto, non si sa mai cosa può succedere durante la notte. Sembra una nottata tranquilla, il tempo non è brutto, no? Non piove, non ci sono temporali in giro, quindi dovrebbe essere una giornata tranquilla, ma è meglio non cantare mai vittoria. Ok Gianni, ti saluto, buonanotte anche a te e buon tabacco per domani, buon fine settimana, ma ci sentiremo sicuramente. E grazie per la compagnia, per le due chiacchiere e per tutto. Ciao Gianni, buonanotte, saluti a casa e ci sentiamo domani. Grazie Claudio, buonanotte e buon tutto anche a te. Saluto anche i tuoi amici in ascolto su 10. Ciao Zero. Ciao ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao, buonanotte. Claudio. Spaziero. La mazza delle varie, ciao Fabrizio. Vabbè, ci sei ripreso. Ripreso, ripreso. So che hai fatto due chiacchiere con l'aria. Me l'ha detto. Via, via. E ripreso, Fabri, stanco sono. Stanco e quel giorno ero ancora più stanco, sono andato per rilassarmi di 10 minuti con un collega, ha preso un caffè che eravamo in zona e invece è successo il patatrack, ma niente di particolare. Io ho scattato. Ciao Tino, no, sai cos'è? Perché abbiamo detto che c'è stato che stavo picchiato che non stava buona a portarti via, vero? Se continuava veniva a portarlo via davvero. Cosa è successo? No, che stavo picchiando a Claudio. Ma ero io. Se così hai, Dudu. Via, via. Guarda, io ho 50 anni, Fabri, Dino mi conosce forse molto prima di te, siamo anche frequentati, ma ancora mai giocato già a fianco di noi. Ma la mia faccia una tradizione poetica. Oh, l'ho già fatta, non c'è problema. Ah, è una trattata che è successa lì a Città Mercato. Sono andato a prendermi caffè e veramente c'era un guardiano Marco e mi puntava. Perché mi sono girato così normalmente come fa una persona tranquilla, ma mi sono girato così a vedere mica a puntare a lui, e lui mi puntava. Cazzia, mi dice, prego, prego, dica, ti conosciamo. Viene qualcosa, cazzo mi ha detto, mamma stai c'è, ah, da lontani che mi si all'intendi, ho detto che cosa trovo a comi, e da lì è partita la sceriffata. Claudio. Oh. Ma invece è fuori Ghino, ce la puntava per quello. Ah, già, poi sono venute le guardie lì, cazzo, c'è solo un casino di Gesù Cristo. Ma così, tutti 5 minuti, metti, niente di particolare. Siccome Fabrizio conosce la mia figlia, va sempre lì a Città Mercato. ma tu non ho capito, ma sei passato subito dopo o l'indomani sei passato, che te l'ha detto l'aria? No, l'indomani, ma che fatti detto, perché avrei voluto vedere, ragazzi. Attimino, se mi metteva la mano, mi staccava la testa. Guarda, fortunatamente c'è la mia figlia, mi conosce, si è avvicinata subito, stava servendo, ho detto papà per favore, insomma mi ha preso male, sono preso male perché sono andato, ero stanchissimo, ero tutto il giorno, ragazzi, guarda a destra e a sinistra, una giornata di merda, di lavoro, ed ero un collega, adesso abbiamo fatto un controllo lì a Monteoro. Ma te io vediamo che c'è caffè sta mercato, ci abbiamo una mezz'oretta prima di andare a timbrare, io ti faccio conoscere mia figlia, gli ho detto, perché a volte ci scambiavamo due cose lì su Facebook. E so che è andato, cazzo, mai ci fossi andato, sembrava la giornata proprio di chiusura, cazzo. Così, la pugna della mano, io vuoi tutto il caffè, e lo viene, dice, mi passa vicino, mi tocca, prego, faccio guardare. Cazzo, io vieno, ci voglio andare a dentro, mamma mia, eccetera, ma cosa vuoi? Guarda, via, come? Mi ripetete lì, hai capito? Mi devi rispettare, torna, ma tenandi o alla fine, cazzo, vero? Guarda, ci non mi obbliga, mi va, ci mette le guardie, cazzo, un casino ho fatto, e mi spiace averci la voleva, e ti se no guarda, non so cosa sarebbe successo, non usci proprio in 5 minuti. Ah, sì, cioè, voglio dire, non è che sei una persona attaccabrighe o che te l'andrà a cercare, voglio dire, sono andato a cercarti. Se mi girava più le palle è che quando sono venute le guardie cazzo c'era bene da una settimana, la mia collega ha detto guarda sei venuto tu a cercare a noi, cosa vuoi? E sei fortunato che non hai buscato forte, capito? E sei fortunato veramente, sei fortunato perché guarda non voglio mica più sono venute le guardie cazzo per favore ma non te lo puoi cercare toglimelo da vicino, hai capito? Non fanno lontanare. E se non ce lo butto dentro il frigo, cazzo. Brutto animale che non si è altro, gli ho detto. Sono qui che ho preso Poppea, capito? Quando mi deve dare lì, ma sì, ma te lontana e tu mi stai allettando, c'hai un odore in bocca, cazzo, non ti avvicinare, puzza vento, vai a lavarti, cazzo. Mi ha fatto qua, sono entrato. Cazzo, uscire. È psicopatico, si tratta del cervello. È per quello, quindi mi ho preso il caffè e voleva che me lo bevevo fuori nella strada. No, perché capito, di solito quando mi metto a stare con le persone, capito, tutto lì. Infatti ho detto una cosa, se poi me la cominci tu, la compro al supermercato, 40 centesimi e me la bevo in macchina, allora non vedo la faccia tua schifosa. C'era quella ragazza, ma ci portano l'ha picchiato, vai, gli tu l'ha picchiato, ma insomma me la vai, e ho detto, poi cosa succede? A parte il fatto di solo mettere in cama, ha detto, non ci vieni in galera, ma ha rischiato di brutto, ma non ci ho visto più. Ma vi rubo come dettaglio, ragazzi, si tratta di 5 minuti, non si allontana con quell'alito bussolente che ci aveva, cazzo. Guarda, per carità di Dio, tu non le chiamate, ti do uno schiaffo che ha fatto me stacco la testa. Dice Maria Gara, è bello Garie, guarda che c'è anche Tino Muccolo. Sì, mi stavo ascoltando, sono al telefono, Flavio. Ciao Tino, ciao Fabri, vai mi metti un rodino di mammo, Fabri, vai. Ma mi hanno detto tutti che c'è una radio allucinante. era una bellissima radio, proprio perfetta, però squillante. Sì, no, l'altro da poco, era forse 10 giorni fa sul 21, ma ero di passaggio perché c'è una persona, se no sai, no, metto qua, se no non c'entro mai, non mi piace. Capito, allora mi facevo, stavo ascoltando con l'R5000, girando, si da voi e sono passato qua. Fatto bene Fabri, quando volevo farci due chiacchiere, stamattina sono passato da lì, no? Un po' tanto, ho fatto e ieri di venerdì, ero, stavo scendendo da Sennori, ero lì a fare un controllo, dicevo mi fermo a prendere il caffè da lì, no? Ho fatto Platamola, ho preso il caffè e le sigarette, due chiacchiere e poi sono andato via, adesso domenica, se fa bel tempo ci scendo. Gaiesce, vabbè, comunque, tornando a quel discorso, una persona, a quello che mi dice Ilaria Fabri, molto maleducato, ma anche con i clienti, perché poi quando mi hanno prorogato le guardie lì, che tra l'altro poi c'è Amedeo che conosco molto bene, che fai l'aria figura, ma tu non è successo, cosa è successo? Non è successo nulla, per me non è successo niente. È lui che è venuto a rompere le scatole, con questa presa popea, chissà di che cosa, e pensava che avesse a che fare con i pupazzi. Infatti metto che ce ne siamo accorti. Ma tu se non entravate voi, lui prendeva colpi, poi quello che non usciva, mi avrei assunto la mia responsabilità, però non si tratta la gente così. Cazzo, sei proprio strusciato, capito? Proprio strusciato, lo metto a dire, padrone, qua sono io, prendi caffè a via di maleducato, cazzo. E dove aprire, ma le andate dove aprire, se no le avevi cattato un conto, io ho detto. Ma io quante volte non ci stavo, c'era la forza proprio per rompergli le palle. Ma perché ho detto, buonasera dottore, io non sono dottore. Cazzo, dottore, guarda. Faccia la guasta che cerca. E anche ben sistemato come persona, abbastanza veloce. Ma c'è una faccia di guasto, cazzo, guarda, non ti dico. Una faccia da schiaffica. Per carità, e 5 minuti a bella, se 5 minuti ed era fatto, perché l'ho detto proprio in faccia, se non te ne vai, cazzo, tiro una scissa, te ne stacco la testa, e continuava a insistere, cazzo, ha capito, lei mi deve dare lì, ha capito, non siamo amici noi, non siamo, lei mi deve dare lì, ma da via, non da via, detto. vattene via, perché sono con questa quartetta, detto. Cazzo, via. Lì c'era poi tra busta, sono intervenuto le guardie, è finito tutto lì, ma altri 5 minuti ha detto un bar, è entrato dentro all'obbligo, vedo. Ma è così, è un personaggio strano, perché è guasto, sai, è un guasto, peggio, è una persona micidiale, proprio maleducato, poi si fa come male, proprio è un animale, non so come definire un personaggio del genere, proprio cassone, proprio sembra chissà che cosa, sembra la più presente della Repubblica, che poi è un handicappato. Benissimo, ma ha detto l'aria che proprio se ne va a cercare lui, capito? Fa così con tanti clienti. Ma ti ripeto, io mai sono andato, non sono di quelli che va nei posti per molestare la gente, per niente. Ti ripeto, sono andato con molto entusiasmo così, avevo questa mezz'oretta, erano le 4:30, noi alle 5 timbriamo, quindi e poi andiamo a prendere un caffè al mio collega e ti faccio conoscere mia figlia. E basta, proprio così, una cosa normalissima, anche perché avevamo cenato al bandiera gialla, perché avevamo il rientro. E quindi ho detto, però prendi il caffè lì, ce lo prendiamo a McDonald's. Cazzo, ma ci fossi andato Fabri. Un casino che non ti dico, un casino. Poi l'ha chiamata in ufficio anche a lei, provetto. Complimentandosi del padre, complimenti per suo padre, al suo papito, perché le cugine che con l'aria non mostrano mattessi, anche l'aria scorpione come non mostra, quando deve risponde, quindi, e niente. E poi dopo un paio di giorni, siccome l'aria aveva fatto la domanda di ferie, le aveva detto personale era poco, eccetera, eccetera. Dopo due giorni l'ha chiamato all'ufficio, le vuole le ferie, Nadia, le vuole le ferie? Può andare in ferie se vuole. Così ha temuto che chiamavo roba a quell'aria che non aveva da dire, quindi. Beh, sicuramente sì, ma è una legge affatto, capito? Fa sempre affatto. È il padre peggio, pensa un poco che la mette un bacetto. Il padre era lì a 3 anni, quindi me l'ha raccontato di tutte le crude. Ma purtroppo Fabri ho rischiato, è andato bene perché ho rischiato io di mettere nei casini a Italia. Io sinceramente ti giuro non sapevo chi era, l'ho visto che è uscito da questa porta dietro, pensavo che era uscito dai comodi e invece è uscito dalla cucina, quindi non me ne sono neanche accorto, altrimenti mi sarei accorto che era qualche dirigente, qualcuno del posto, quindi non avrei insomma reagito in quella maniera, avrei evitato, anche passando da coglione, però avrei evitato, capito? Ed è giunta a provocarmi, quindi è andata a vedere, è andata un bel bel, comunque pazienza, io già non ci metto più piede, perché se si ripresenta come si è presentato la prossima volta gli mette l'aria dalle dimissioni, vai di lì, ma lo vedo, non riesce più da chi mi dentro, perché lo picchio forte, ma forte, e se lo curo dentro la registrice e lui, ma che comunque lo capo dentro la registrice. Non si scirava le lenti, cazzo, che di massimo non si scirava mai le lenti, chissù. Uno schifoso, cazzo, ma ti l'aria sempre vestito uguale, cazzo. E poi ci siamo scusi, questa gente qua. Perché ormai l'abbiamo cagliato, ma è tutto, è sempre la stessa roba. Ma vedete l'aria, papà, ogni volta che viene al Mac è sempre vestito uguale. O gliela lava la moglie, la camicia gliela stira e gliela rirà perché non ha roba. Oppure guarda, quella camicia ci avrà tanta di quella rogna addosso, che è una cosa allucinante. Ma la moglie uguale a lui, tranquillo. Uguale a lui. Pinghino ci ha mai detto. Passa via, ragazzi. Ma dai, Pinghino ci ha mai detto. La moglie ha detto a Ilaria che Pinghino c'è come lui. Lo sai, non è che fanno lo zoppo. Che schifo, ragazzi. Mi si è avvicinato, mi stava facendo mia voglia di vomitare, un chicca di doce va via, ragazzi, questo salito pesante, ho tomato la montagna che mi stai alitando, ragazzi. Ieri era in casa, era avvicinata, ragazzi. Ho detto allontanati che mi stai alitando, no, hai capito? Se riparai parla di sante, forse ti conviene, non ti avvicinare a me, non ti avvicinare. Ma che cazzo ti lascia con un capo, ho scritto. E vai a lavarti che c'è una puzza addosso, non ci può stare. Pinghino, ci ho tricolore, ho scritto. Ok, no. Vabbè sì, brumido. No, stavo disegnando lì. A Gabriele in un foglio di carta che si è appassionato a questo cartone animato. Ho capito. Andiamo. E Luca, ci sei Luca? Ma sì, sentite cosa sto modulando, cosa sto modulando. Sì, va bene. Diciamo che la timbrica è quella, la radio è perfetta. Sono una cosa allucinante, ho tolto, mi hanno fatto un regalo, io sono appassionato, sai, anche di vecchi baracchini, ne ho tanti, ma questo mi hanno fatto un regalo, ho detto no, non può essere KB23, ho iniziato a modulare con la KB23, mi ha regalato Gigino Vulcano, ora lo sappiamo tutti, l'ho già detto in radio, non lo dico ancora. E mi ha detto, era lì fermo, prendi, tutto si è appassionato, infatti mi ha regalato il cavetto di alimentazione perché non c'era neanche. E mi ha detto, però non ho il microfono al mare, e io gli ho il microfono al mare, ora c'ho problemi, qua c'ho il tane più 3, c'ho il, ne ho due di tane più 3, c'ho l'M500, c'ho Saletta, ne ho tanti microfoni, uno non andrà bene, c'è provo, problema. Ho attaccato il 3 più 3, ho visto che si sì, ma sono andato a comprare la batteria, cazzo, mi ho messo le cuffie e mi sono spaventato. Senza una manco connessione, allucinante. Va molto bene, quindi la sera, quando non c'è nessuno, c'è pochi watt. Però gli ho messo un linearettino da 80 watt. E giù mai arrivi cante lupino, davanti arrivi cante lupino, non su. E niente, tutto qua, tutto qua. Beh raga, sono le 11, domani devo alzare alle 5. Se non mi rompo le palle stanotte, quindi stavo già chiudendo. Io ringrazio Fabrizio, che mi ha fatto piacere, anche Tuttino. Lì se si trattiene Luca, voi fate due chiacchiere con lui, ma io spero tutto se no. Domani mi canta il cucù, ripeto, con la speranza che non mi chiamino stanotte, ma come diceva Gianni Capodue poco fa, sembra una giornata, una nottata calma, qui non ci dovrebbero essere problemi di pianti, speriamo, se no mi maggiora la figura, come ho trovato, la seduto che ha trovato ancora io. Ciao a tutti signori, buonanotte, statevi bene, ciao Fabi. Già ci vediamo quindi dai, già ci vediamo, non di certo non è che no, ma ci vediamo giù alla torre. Ciao Dino, saluti a casa, ciao Luca, ciao a quelli che stanno ascoltando, buonanotte a tutti, tutti, tutti. Siamo andati in pace, intanto è il mio destino, quando sono io il reperibile, il mio destino, non c'è niente da fare. Qualche cosa deve sempre giocare. Speriamo, speriamo che non succeda niente, sennò... Sono paziente, che cosa? Concorso in omicidio, occultamento di cadavere, va, l'hanno arrestata quella ragazza. Ma si sapeva che era lì, si sapeva. Troppi ambienti, troppe lacrime di coccodrillo, cazzo, miserabili, padre e figlio. Sì. L'hanno arrestata, perché oggi l'avevano prelevata a casa, ma si sapeva, la faccia della complice c'era, ma c'era tutta. Animale, guarda. Gente, animale così, no, guarda, lasciamo perdere. Dai, buonanotte a tutti, ciao Tino, Antonio, Luca, Fabrizio e Querix. Buonanotte a tutti, dai, vado a vedermi 2 minuti di TV, poi me ne vado a nanna, ciao ciao. Ciao, Antonio, buonanotte, dai, sei guardato, dai. Tutto le prossime, ciao Fabrizio e ciao Tino. Ciao Luca e eventuale sfortuna, tutte le possibili. Ciao ciao, guardi. Ciao ciao. Ciao. Certo ragazza. Ma no, magari lì così, ma ce ne sono che per carità. No, non vogliono visti, dai. E sono nervosi anche perché. A una solo tocca fare il turno per dire con 14 camere di palazzo loro si nervoscono per quello che chiamano i 50 la voce per forza per la fine non voleva dire più tu quindi ti rispandi loro c'è poco personale anche all'ospedale quello lì. Però già ci sono, c'è anche quella grande di Pilari, per carattere non sopportano nulla, anche perché poi se si comportano troppo bene ne approfittano.